Capitolo 50. Prima di allora, il signor Bennet aveva molto spesso rimpianto di non aver messo da parte ogni anno una somma per garantire un più cospicuo reddito alle figliole e alla moglie, se questa gli fosse sopravvissuta, anziché spendere per intero le sue entrate. Adesso lo rimpiangeva più che mai. Se avesse fatto il suo dovere in quel senso, ora Lydia non sarebbe stata obbligata verso lo zio per quel tanto di onore e di reputazione che questi poteva averle acquistato. Allora la soddisfazione di aver indotto uno dei più spregevoli giovanotti di Gran Bretagna a diventare suo marito avrebbe potuto rimanere entro i suoi giusti limiti. Lo preoccupava seriamente il fatto che una causa così poco vantaggiosa per ognuno fosse mandata avanti a sole spese del cognato, ed era deciso a scoprire, se possibile, l'entità dell'aiuto da lui prestato e ad assolvere al debito appena avesse potuto. Un tempo, quando il signor Bennet si era sposato, l'economia era stata considerata perfettamente inutile perché naturalmente contavano di avere un figlio maschio. Questo figlio sarebbe valso, non appena maggiorenne, a svincolare il patrimonio e in tal modo la vedova e i figli minori avrebbero avuto di che vivere. Invece, cinque femmine erano venute al mondo, una dopo l'altra, ma il figlio era ancora di là da venire. E per molti anni dopo la nascita di Lydia, la signora Bennet si era ritenuta sicura che ciò sarebbe accaduto. Quando infine si era perduta ogni speranza per un simile evento, era ormai troppo tardi per mettersi a risparmiare. La signora Bennet non era nata per fare economia e soltanto l'amore di indipendenza del marito aveva impedito che le spese superassero le entrate. Per contratto matrimoniale era stato costituito un assegno di 5.000 sterline a favore della signora Bennet e dei figlioli. Ma in quali proporzioni esso dovesse venire diviso fra questi ultimi dipendeva dalla volontà dei genitori. Era questo un punto che, almeno per quanto riguardava Lydia, andava chiarito ora e il signor Bennet non poteva esitare ad accedere alla proposta fattagli. In termini di calda riconoscenza per la bontà del cognato, per quanto estremamente concisi, egli affidò allora alla carta la sua piena approvazione per tutto quanto era stato fatto, esprimendo la sua ferma volontà di adempiere a tutti gli obblighi che erano stati assunti in suo nome. Non si era mai immaginato, prima che volendo indurre Wickham a prendere in moglie quella sua figliola, ci si sarebbe riusciti con così poco scomodo per lui come nell'attuale accordo. Sulle 100 sterline che doveva loro versare, non veniva a rimettercene neppure 10, poiché tra il vitto e i minuti piaceri e i continui regalucci in regalo che le passavano le mani materne, le spese di Lydia erano rimaste ben di rado entro quella cifra. Un'altra grandissima sorpresa fu che la cosa fosse stata fatta con così poca fatica da parte sua, già che ora non desiderava altro che di avere il minimo fastidio possibile in tutta la faccenda. Una volta passati i primi impeti d'ira che le ricerche frenetiche della figlia gli avevano causato, egli tornò spontaneamente alla sua consueta indolenza. La lettera fu presto spedita. Benché amasse temporeggiare nell'intraprendere gli affari, era però sollecito nel disbrigo di essi. Chiedeva di avere altri particolari circa il debito contratto verso il cognato, ma era troppo sdegnato con Lydia per mandarle a dire alcunché. La buona novella si diffuse rapidamente in tutta la casa e con proporzionata rapidità nel vicinato, il quale prese la faccenda con discreta filosofia. Certo, la conversazione avrebbe tratto maggior vantaggio se la signorina Lydia Bennet fosse stata incontrata a caso nella cittadina. O altra felicissima alternativa se fosse stata reclusa dal mondo in qualche remota casa di campagna. Ma anche nel fatto che si maritasse c'era parecchio da dire, e i cordiali auguri di prosperità precedentemente formulati da tutte le maligne vecchie signore di Meryton perdettero ben poco del loro veleno in questa mutata situazione, poiché con un marito simile la sua infelicità era data per sicura. Erano 15 giorni ormai che la signora Bennet non era più scesa di sotto, ma in quel lieto giorno ella riprese il suo posto a capotavola, in una disposizione di animo oppressivamente lieta. Il suo trionfo non era infirmato da alcun sentimento di vergogna. Il matrimonio di una figlia, primo oggetto dei suoi desideri da quando Jane aveva 16 anni, stava ora per divenire realtà. E pensieri e parole scorrevano tutti pieni di quelle quisquilie dei matrimoni eleganti, mussole finissime, carrozze nuove, servidorame. Stava ricercando attivamente nel vicinato un alloggio conveniente per la figlia e senza saperne riflettere su quella che avrebbe potuto essere la rendita dei nuovi sposi, ne scartava un gran numero, perché insufficienti o per ampiezza o per decoro. Potrebbe andar bene Hay Park, dichiarò, se i Gouldings lo lasciassero libero, oppure quella gran villa Stoke, se il salotto fosse più grande. Ma Ashworth è troppo lontano. Non potrei sopportare di averla a 10 miglia di distanza da me. E quanto a Villa Pulvis? I solai sono orribili. Il marito la lasciò ciarlare senza interromperla finché rimasero i domestici, ma quando questi si furono ritirati le disse: prima che tu prenda una o tutte codeste case per tuo genere e tua figlia, intendiamoci bene su un punto. C'è una casa di questi paraggi in cui essi non potranno mai mettere piede. Non intendo incoraggiare la loro impudenza con la riceverli qui a Lombourne. A questa dichiarazione seguì una lunga disputa, ma il signor Bennet rimase irremovibile e la discussione li portò ad un'altra. La signora Bennet scoprì meravigliata e inorridita che suo marito non avrebbe anticipato neppure una guinea per comprare il corredo alla figlia e gli dichiarò che Lydia non avrebbe avuto da lui in quell'occasione la minima prova d'affetto. La signora Bennet non riusciva a capacitarsene. Che il suo sdegno potesse spingerlo a tal punto di inconcepibile risentimento da rifiutare alla figlia un intervento senza il quale il matrimonio sarebbe sembrato valido sì e no, superava ogni sua facoltà di immaginazione. Mostrava di essere più sensibile al disonore che la mancanza di vestiti nuovi avrebbero gettato sulle nozze della sua figliola, che non a qualsiasi sentimento di onta per il fatto che ella fosse fuggita e avesse vissuto con Wickham 15 giorni prima del matrimonio. Elisabeth rimpiangeva adesso con tutto il cuore di essere stata indotta dall'angoscia del momento a mettere al corrente il signor Darcy dei loro timori per la sorella, poiché dal momento che il matrimonio avrebbe così presto dato la giusta conclusione alla fuga, si poteva sperare di nascondere quell'infausto inizio a tutti coloro che non erano stati proprio addentro. Nonché temesse che per mezzo di lui la notizia si sarebbe ulteriormente propalata. C'erano poche persone sulla cui riservatezza egli avrebbe fatto assegnamento maggiore. Al tempo stesso, però, non c'era nessuno che la mortificasse tanto di sapere a conoscenza della debolezza della sorella, e questo non per timore di un danno che potesse derivare a lei stessa, giacché in ogni modo pareva essersi stabilito fra loro un abisso insormontabile. Quando anche il matrimonio di Lydia fosse stato concluso nelle condizioni più onorevoli, non era neppur supponibile che il signor Darcy avrebbe desiderato di imparentarsi con una famiglia per la quale, a tutte le altre ragioni in contrario, si sarebbe ora aggiunta quella di uno stretto vincolo di parentela con l'uomo che così giustificatamente egli disprezzava. Elizabeth non si poteva meravigliare che egli indietreggiasse al pensiero di un simile imparentamento. Il desiderio di conquistare l'amore di lei, sentimento che ella ne era ormai certa e gli aveva provato nel Derbyshire, non poteva logicamente sopravvivere a un colpo come quello. Era umiliata, era afflitta e provava un certo pentimento, sebbene non sapesse neppure lei di che natura. Divenne gelosa della buona opinione di lui, ora che non poteva più sperare di beneficiarne. Desiderava avere sue notizie adesso che la probabilità di comunicare era minima. Era convinta che con lui avrebbe potuto essere felice quando ormai non era più pensabile che si incontrassero. Che trionfo per lui! Le veniva fatto sovente di pensare, se avesse potuto sapere che le proposte che soltanto 4 mesi prima ella aveva orgogliosamente respinto sarebbero state ora lietamente gradite e accettate. Egli era generoso, Elisabeth non lo metteva in dubbio, come il più generoso degli uomini, ma siccome era un mortale, avrebbe goduto del suo trionfo. Cominciava ora a capire che sia per carattere, sia per intelletto, egli era l'uomo che più di ogni altro le si confaceva. La mente, il cuore di lui, sebbene dissimili dai suoi, avrebbero corrisposto a tutti i suoi desideri. Era un'unione che sarebbe tornata a vantaggio di entrambi. L'animo di lui sarebbe stato addolcito dalla naturalezza e dalla vivacità di lei, e sue maniere si sarebbero ingentilite. E quanto a lei, dal giudizio, dalla cultura e dalla conoscenza del mondo che aveva lui, avrebbe tratto un giovamento ancora maggiore. Ma non sarebbe stato questo ormai il matrimonio perfetto che avrebbe potuto insegnare alle ammirate moltitudini che cos'è la felicità coniugale. Nella famiglia stava per concludersi un'unione di natura ben diversa, che avrebbe precluso ogni possibilità per quell'altra. Come Wickham e Lydia sarebbero riusciti a mantenere una certa indipendenza finanziaria, Elisabetta non sapeva davvero immaginare, ma di qual breve durata dovesse essere la felicità di una coppia che si era unita soltanto perché in essa la forza della passione dominava quella della virtù, poteva figurarselo senza sforzo. Poco dopo il signor Gardiner scrisse di nuovo al cognato. All'espressione di gratitudine del signor Bennet rispose brevemente, assicurandolo della propria sollecitudine per il benessere di qualunque membro della famiglia, e concludeva pregando di non tornare più con lui su quell'argomento. Scopo principale della sua lettera era quello di informargli che il signor Wickham aveva deciso di abbandonare la milizia. Era mio vivido desiderio che lo facesse appena fosse fissato il matrimonio. E credo che tu sarai d'accordo con me nel ritenere altamente desiderabile un allontanamento da quel corpo sia per lui sia per mia nipote. Hai intenzione del signor Wickham di arruolarsi nell'esercito regolare e fra i suoi amici di una volta ve ne sono ancora alcuni disposti e capaci di aiutarlo a entrare nell'esercito. Gli è stato promesso il grado di alfiere nel reggimento del generale, attualmente acquartierato nel nord. Sarebbe un vantaggio averlo così lontano da questa parte del regno. Egli promette abbastanza bene e io spero che fra gente diversa dove tutti e due avranno una reputazione da salvare, saranno entrambi più cauti. Ho scritto al colonnello Forster informandolo dei nostri attuali accomodamenti e chiedendogli di soddisfare i vari creditori del signor Wickham a Brighton e nei dintorni, assicurando un pronto pagamento del quale mi sono reso garante. Vorresti prenderti tu il fastidio di fornire analoghe assicurazioni ai suoi creditori di Meriton, dei quali ti unisco un elenco in base alle sue indicazioni? Egli ha specificato tutti i suoi debiti. Speriamo che almeno non ci abbia ingannati. Eggerston ha avuto le nostre istruzioni e fra una settimana sarà tutto pronto. Allora gli sposi raggiungeranno il reggimento di lui, a meno che non siano invitati prima a Longbourn. E a quanto mi dice mia moglie, mia nipote desidera molto di vedervi tutti prima di lasciare il sud. Sta bene e chiede di essere rispettosamente ricordata a te e a sua madre. Tuo, eccetera, eccetera. Edward Gardiner. Il signor Bennet e le sue figliole compresero non meno chiaramente del signor Gardiner tutti i vantaggi di un allontanamento di Wickham dalla milizia del Shire. Ma la signora Bennet non era altrettanto soddisfatta. Il fatto che Lydia si andasse a stabilire nel nord dell'Inghilterra proprio nel momento in cui ella si aspettava dalla sua compagnia grandissimo diletto e vanto, giacché non aveva affatto rinunciato al suo progetto di vederli stabilire nello Herefordshire, fu un'amara delusione. E poi era un vero peccato che Lydia dovesse venire allontanata da un reggimento dove aveva fatto conoscenza con tutti e dove aveva tanti buoni amici. Vuol tanto bene alla signora Forster, diceva la madre. Sarà un vero delitto mandarla via e ci sono anche parecchi di quei giovanotti che le piacciono tanto. Può darsi che nel reggimento del generale gli ufficiali non siano ugualmente simpatici. La preghiera di Lydia, che tale si poté considerare, di essere di nuovo ammessa in seno alla famiglia prima di partire per il nord, ricevette sulle prime da parte del padre un reciso diniego. Ma Jane ed Elizabeth, entrambe desiderose per amore della sorella e della sua buona reputazione, di vederla salutare dai genitori nel giorno delle sue nozze, seppero insistere con lui in modo così caldo, giudizioso e delicato perché ricevesse lei e il marito a Longbourn, subito dopo la cerimonia nuziale, che egli finì per pensare a modo loro e agire secondo i loro desideri. E la mamma ebbe la soddisfazione di sapere che avrebbe potuto andare in giro per il vicino a mostrare la figlia sposa prima che questa venisse esiliata nel settentrione. Scrivendo dunque un'altra volta al cognato, il signor Bennet mandò la sua autorizzazione alla loro venuta e fu stabilito che non appena finita la cerimonia, essi avrebbero proseguito per Longbourn. Elizabeth si meravigliò tuttavia che Wickham acconsentisse a tale progetto e quanto a lei, se avesse dovuto consultare la propria inclinazione, il ritrovarsi con lui sarebbe stato l'ultimo dei suoi desideri. Capitolo 51. Venne il giorno delle nozze della loro sorella e Jane ed Elizabeth provarono emozioni forse maggiori di quelle provate da Lydia stessa. Fu mandata al loro incontro la carrozza e in essa gli sposi avrebbero dovuto far ritorno per l'ora di pranzo. Le due maggiori paventavano il momento del loro arrivo, Jane in special modo, che attribuiva a Lydia i sentimenti che avrebbe provati lei se fosse stata la colpevole e si crucciava al pensiero di quel che doveva patire la sorella. Arrivarono. La famiglia era radunata nella saletta da pranzo ad attenderli. Mentre la carrozza si avvicinava alla porta, il volto della signora Bennet si illuminò di sorrisi. Suo marito rimase impenetrabilmente grave, le figliole eccitate, ansiose, turbate. Nel vestibolo risuonò la voce di Lydia, si spalancò la porta ed ella irruppe nella stanza. La mamma fece un passo avanti, l'abbracciò e le diede un entusiastico benvenuto, porse con un tenero sorriso la mano a Wickham, che veniva dietro alla consorte, ed augurò loro ogni bene, con un fervore che rivelava come non nutrisse alcun dubbio sulla loro felicità. L'accoglienza riservata loro dal signor Bennet, al quale si rivolsero subito dopo, non fu altrettanto cordiale. Il suo contegno si faceva semmai vieppiù severo, quasi non aprì bocca. Il tono di disinvolta sicurezza nella giovane coppia era proprio fatto per irritarlo. Elisabetta ne fu disgustata e persino Jane ne rimase colpita. Lydia era sempre la stessa, incorreggibile, sfrontata, chiassosa, rumorosa, temeraria. Passò da una sorella all'altra a chiederle congratulazioni e quando finalmente si misero tutti a sedere, si guardò animatamente intorno per la stanza, si accorse di qualche piccolo cambiamento e con una risata osservò che era passato gran tempo da che non era più stata lì. Wickham non era affatto più abbattuto della moglie, i suoi modi però erano sempre così piacevoli che se in lui carattere e patrimonio fossero stati quali avrebbero dovuto essere, i sorrisi e la disinvoltura con cui reclamava la loro parentela li avrebbero tutti affascinati. Elisabetta non l'aveva creduto prima capace di tanta baldanza, ma si mise a sedere, risolvendo in cuor suo di non porre più limiti per il futuro alla sfrontatezza di uno sfrontato. Arrossiva lei e arrossiva Jane, ma le gote dei due che avevano destato in loro quella confusione non mutarono mai colore. Non mancarono argomenti di conversazione. La sposa e sua madre non riuscivano né l'una né l'altra a ciarlare abbastanza alla svelta. E Wickham, che si era seduto per caso accanto a Elizabeth, presa ad informarsi delle conoscenze che aveva in quei luoghi con tanta gioviale disinvoltura, che ella si sentiva davvero impari a soddisfarlo. Pareva che sia l'uno che l'altra serbassero i più grati ricordi di quel mondo. Niente di quel che si riallacciava al passato venne rievocato con tristezza e Lydia portava spontaneamente il discorso su argomenti che le due sorelle si sarebbero ben guardate dallo sfiorare. Pensate un po', sono 3 mesi che me ne sono andata. Io direi che sono appena 2 settimane. Eppure ne sono accadute di cose nel frattempo. Mio Dio, certo quando sono partita non avevo la più lontana idea di tornarmene indietro sposata. Eppure ho sempre pensato che sarebbe stato un bello scherzo se ci fossi riuscita. Il babbo alzò gli occhi. Jane era desolata. Elizabeth fissò Lydia con un'occhiata espressiva, ma questa, che non udiva e non vedeva mai nulla che non le facesse comodo, continuò tutta allegra. Oh, mamma, lo sa la gente qui intorno che mi sono sposata oggi? Avevo timore che no. Così, quando abbiamo raggiunto William Golding nel suo calesse, ero ben decisa a farglielo sapere. E allora ho tirato giù il vetro della carrozza dalla sua parte, mi sono tolta il guanto e appoggiato la mano sulla cornice del finestrino in maniera che vedesse la fede. E poi ho fatto un cenno col capo e uno di quei sorrisi. Elisabetta non si sentì più in grado di sopportarla. Si alzò, corse fuori dalla stanza e non tornò più finché non li sentì attraversare l'anticamera diretti in sala da pranzo. Li raggiunse allora abbastanza presto per vedere Lydia che impaziente e solenne si andava a mettere alla destra della madre e sentirla dire alla sorella maggiore: Jane, ora prendo io il tuo posto. Tu devi metterti un pochino più in giù, perché io sono una signora sposata. Non c'era neppure da supporre che il tempo avrebbe conferito a Lydia quel senso di impaccio da cui era stata così totalmente immune fin dalla nascita. La sua disinvoltura e il suo umor lieto non facevano che aumentare. Aveva una gran voglia di vedere la signora Phillips, Lucas e tutti i vicini per sentirsi chiamare signora Wickham. Da tutti. Intanto, subito dopo pranzo, andò a mostrare la fede alla signora Hill e alle due cameriere. Dunque, mamma, che ne dite di mio marito? Non è affascinante? Sono sicura che tutte le mie sorelle me lo invidiano. Spero soltanto che abbiano metà della fortuna che ho avuto io. Dovrebbero andare tutte a Brighton. Quello sì che è un posto per acchiappar mariti. Che peccato, mamma, che non ci siamo andati tutti. Un gran peccato davvero. E se avessi potuto fare a modo mio, ci saremmo andati come? Ma Lydia mia cara, non mi piace affatto che tu te ne vada così lontano. Non si può fare altrimenti. Oh Dio, no, a questo non c'è rimedio. Ma a me piacerà più di tutto il resto. Lei e il babbo e le sorelle dovranno venirci a trovare. Staremo a Newcastle tutto l'inverno e spero che ci sarà qualche festa di ballo. Mi occuperò di trovare buoni cavalieri per tutte loro. Mi piacerebbe enormemente, esclamò sua madre. E poi ripartendo potreste lasciarvi dietro una o due delle mie sorelle e vedrà se io non riesco a trovare loro mariti prima della fine dell'inverno. Ti ringrazio per quanto hai intenzione di fare per me, interloquì Elisabeth, ma non apprezzo abbastanza il tuo modo di trovare marito. Gli ospiti non dovevano rimanere più di 10 giorni e signor Wickham aveva ottenuto la nomina prima di lasciare Londra e doveva raggiungere il reggimento entro 2 settimane. All'infuori della signora Bennet nessuno rimpianse che il loro soggiorno dovesse durare così poco, ma anche lei seppe trarre dal tempo il massimo profitto, andando in giro a far visite con la figlia e ricevendo parecchio in casa. Quei ricevimenti riuscivano graditi a tutti quanti. Evitar di trovarsi nella ristretta cerchia familiare era cosa ancora più desiderabile per chi era in grado di pensare che per chi non lo era. L'affetto di Wickham per Lydia era appunto quale Elizabeth si era aspettata di constatare, non pari a quello che Lydia portava lui. Non avrebbe avuto affatto bisogno di osservarli da vicino per vedersi riconfermare dall'evidenza dei fatti che la loro fuga era stata provocata piuttosto dalla forza dell'amore di lei che da quello di lui. E se non fosse stata sicura che per lui la fuga era stata imposta da quelle disperate circostanze, si sarebbe domandata perché, senza essere travolto da una vera passione per lei, avesse accettato di scappare. In tal caso, non era lui il tipo da resistere alla tentazione di prendersi una compagna. Lydia ne era innamoratissima. Ne parlava ad ogni occasione come del suo caro Wickham. Nessuno poteva essergli paragonato. Faceva ogni cosa meglio di chiunque altro al mondo. Era sicura che al 1° di settembre avrebbe ucciso più selvaggina a lui di chiunque altro in Inghilterra. Una mattina, nei primi giorni dopo il loro arrivo, mentre si trovava in salotto con le due sorelle maggiori, disse rivolgendosi a Elizabeth: Lizzie, a te non ho mai raccontato come si sono svolte le mie nozze, credo. Tu non c'eri quando ne ho parlato alla mamma e a tutti gli altri. Non sei sicura di sapere com'è andata? No, davvero. Mi pare sia un argomento sul quale non si tacerà mai abbastanza. Oh là là, come sei strana! Ma ti devo raccontare come fu invece. Ci sposammo, lo sai, nella chiesa di San Clemente, perché Wickham abitava sotto quella parrocchia ed era stabilito che ci dovessimo trovare tutti lì per le 11. Lo zio, la zia e io dovevamo andare insieme e gli altri dovevano incontrarci davanti alla chiesa. Ebbene, venne lunedì mattina. Io mi sentivo così agitata, avevo tanto timore che capitasse qualche cosa da dover rimandare tutto a un altro giorno. Allora sì che sarei impazzita. E la zia? Tutto il tempo che impiegai a vestirmi rimase lì, a predicare, a parlare, proprio come se stesse leggendo un sermone. Io però non ascoltai una parola su 10 perché pensavo, puoi immaginartelo, al mio caro Wicca. Morivo dalla voglia di sapere se per sposarsi si sarebbe messo all'abito blu. Ebbene. Si fece colazione alle 10, come di solito. Mi pareva che non si finisse mai. Già, perché devi anche sapere che gli zii sono stati tremendamente antipatici tutto il tempo che sono rimasta con loro. Tu non mi crederai, ma ti assicuro che non ho messo una volta il piede fuori di casa, sebbene ci sia rimasta 15 giorni. Non un ricevimento, nemmeno il progetto, nulla. Certo, Londra era piuttosto in ribasso, però il Little Theatre era aperto. Dunque, per finire, proprio quando arrivò la carrozza, lo zio venne chiamato per questioni di affari da quell'odioso signor Stone. Cara mia, quando quelli si trovano insieme non la finiscono più. Dio mio, ero così spaventata che non sapevo più cosa fare. Era lo zio che doveva accompagnarmi in chiesa e se lasciavamo passare l'ora non potevamo più sposarci per tutto il giorno. Ma per fortuna lo zio tornò lì a 10 minuti e ci avviammo tutti. Però me ne rammentai più tardi. Anche se lui si fosse trovato nell'impossibilità di venire, non sarebbe stato necessario di rimandare il matrimonio, perché il signor Darcy avrebbe potuto benissimo sostituirlo. Il signor Darcy? Ripeté Elisabetta al colmo della sorpresa. Eh già, doveva venire anche lui con Wickham, sai, ma santo cielo, me ne sono scordata. Non avrei dovuto dire una parola su questo. Lo avevo promesso a tutti con tanta sincerità. Che dirà Wickham? Doveva essere uno di quei segreti. Se doveva essere un segreto, disse Jane, non pronunciare parola di più sull'argomento. Sta certa che io non ti chiederò maggiori particolari. Oh, Certamente, confermò Elizabeth, sebbene si struggesse di curiosità. Noi non ti faremo alcuna domanda. Grazie, rispose Lydia, perché se me ne faceste sono sicura che vi racconterei tutto e allora Wickham si arrabbierebbe davvero. Con un simile incoraggiamento a investigare, Elizabeth si sentì costretta a impedirselo scappando via. Ma rimanerne nell'ignoranza su un tale punto era impossibile, o quantomeno era impossibile non cercare di avere qualche informazione. Il signor Darcy era stato alle nozze di sua sorella, esattamente in un luogo e in un ambiente dove sembrava dovesse aver meno a che fare, dove meno doveva tentarlo fare la sua comparsa. Per cercare di scoprirne il significato, le si affacciarono alla mente rapide e farraginose congetture, ma nessuna la persuase. Quelle che più la lusingavano perché gettavano una luce nobilissima sulla condotta del signor Darcy apparivano anche le meno probabili. Non seppe sopportare oltre questo stato di incertezza e, afferrato in fretta un foglio di carta, scrisse una breve lettera alla zia per chiedere spiegazioni di quanto Lydia si era lasciata sfuggire, qualora ciò fosse stato compatibile con la segretà promessa. Può facilmente comprendere quale possa essere la mia curiosità di sapere come mai una persona che non è legata ad alcuno di noi da rapporti di parentela, un estraneo in certo senso per la nostra famiglia, si sia trovato fra voi in una simile circostanza. Mi scriva immediatamente, la prego, e me ne informi, a meno che per motivi imprescindibili la cosa non debba restare segreta, come si direbbe che ritenga Lydia. Nel qual caso dovrò accontentarmi di rimanerne all'oscuro. Senza riuscirci del resto, soggiunse rivolta a se stessa e terminò la lettera. Cara zia, se non me lo dirà lei in modo onorevole, sarò certamente costretta a ricorrere a sotterfugi e stratagemmi per venirne in chiaro. Il delicato senso d'onore di Jane non le avrebbe permesso di accennare in privato con Elizabeth a quanto Lydia si era lasciata sfuggire. Elizabeth ne fu lieta, fin quando che non le risultava che le sue indagini sarebbero approdate a qualche cosa, preferiva rimanere senza confidenti. Capitolo 52. Elizabeth ebbe la soddisfazione di ricevere la risposta alla sua lettera nel più breve tempo possibile. Appena ne fu in possesso, si avviò rapida verso il boschetto, dove era meno probabile che andassero a disturbarla. Sedette su una panchina e si dispose a essere accontentata, poiché bastava la lunghezza della lettera a convincerla che non conteneva un rifiuto. Grace Church Street, 6 settembre. Mia cara nipote, ho ricevuto ora la tua lettera e dedicherò l'intera mattinata a risponderti, già che prevedo che non basteranno poche parole a esporre tutto quel che ho da dirti. Devo confessarti la mia sorpresa per la domanda che mi hai fatto. Da te non me l'aspettavo. Non pensare che io sia risentita, però. Intendo soltanto farti comprendere che non credevo simili indagini necessarie da parte tua. Se preferisci non capirmi, perdona la mia sfacciataggine. Tuo zio non è meno sorpreso di me. E nulla l'avrebbe indotta ad agire come ha fatto, se non la convinzione che tu fossi una delle parti in causa. Ma se davvero tu sei innocente, ignara, è dopo che io sia più esplicita. Il giorno stesso in cui io rientrai a Longbourn, tuo zio ricevette una visita del tutto inaspettata. Il signor Darcy, che venne qui, rimase chiuso con lui parecchie ore. Il colloquio finì prima che io arrivassi. Così la mia curiosità non dovette sottostare alla durissima prova a cui pare abbia dovuto sottostare la tua. Il signor Darcy era venuto per dire a Gardiner dove si trovava tua sorella e il signor Wickham. Egli li aveva visti tutti e due e aveva parlato con entrambi più volte con Wickham, una volta sola con Lydia. Per quel che ho potuto ricostruire, egli aveva lasciato il Derbyshire solo un giorno dopo di noi ed era venuto in città con la ferma risoluzione di scovarli. Il motivo da lui adottato era che fosse da ascrivere a sua colpa se lo spregevole carattere di Wickham non era stato abbastanza conosciuto da impedire a qualunque signorina come si deve di amarlo o di fidarsi di lui. Fu tanto generoso da imputare il tutto al suo falso orgoglio e confessò di avere in un primo tempo ritenuto indegno di sé e rivelare al mondo i suoi fatti privati. Pensava che il carattere di Wickham si sarebbe svelato da solo. Riteneva perciò suo dovere farsi avanti e tentare di rimediare a un male che era stato causato soltanto da lui. Se poi avesse avuto un altro motivo, son certa che non gli sarebbe torto in alcun modo. Era rimasto in città alcuni giorni prima di riuscire a scoprirli, ma aveva qualche filo più di noi per dirigere le sue ricerche. La consapevolezza di questo fatto era stata un'altra delle ragioni che l'avevano spinto a seguirci. C'è una signora, a quanto pare, una certa Young, che fu tempo addietro governante della signorina Darcy e venne licenziata dal suo incarico per non so quale motivo di disapprovazione su cui egli ha taciuto. Costei prese poi una gran casa in Edward Street e vive da allora affittando stanze. Gli risultava che questa signora Young fosse intima di Wickham ed egli si recò da lei per averne notizie appena giunto nella capitale. Gli ci vollero però 2 o 3 giorni prima di riuscire a ricavarne l'informazione desiderata. Ella non voleva tradire il suo protetto, suppongo, senza farsi corrompere da un congruo compenso, poiché in realtà sapeva benissimo dove ripescare il suo amico. Anzi, Wickham era stato da lei appena arrivato a Londra con Lydia e se ella avesse potuto alloggiarli si sarebbe senz'altro sistemati presso di lei. Comunque il nostro gentile amico riuscì finalmente a procacciarsi le indicazioni che gli stavano a cuore. Stavano in Street. Vide Wickham e insistette per incontrarsi successivamente con Lydia. Suo scopo precipuo nei riguardi di lei, le dichiarò, era stato quello di persuaderla ad abbandonare la sua sciagurata posizione e a far ritorno presso i suoi amici, non appena si fossero potuti convincere ad accoglierla, offrendole il suo aiuto per quanto le sarebbe servito. Ma trovò Lydia fermamente decisa a rimanere dove si trovava. Non le importava nulla dei suoi amici, non aveva bisogno del suo aiuto. Non voleva neppur sentir parlare di lasciare Wickham. Era sicura che un momento o l'altro si sarebbero sposati. Poco le interessava di sapere quando. Poiché tali erano i suoi sentimenti, altro non rimaneva da fare, gli pensò se non concludere, e presto, un matrimonio, cosa che, come gli era stato facile comprendere fin dalla sua prima conversazione con Wickham, non era mai entrata nei progetti di lui. Wickham si confessò costretto a lasciare il reggimento a causa di alcuni debiti d'onore molto stringenti e non si fece scrupolo di addossare alla leggerezza di Lydia soltanto tutte le responsabilità della loro fuga. Intendeva dar subito le dimissioni della sua carica. Quanto all'avvenire, poteva far ben pochi progetti. Da qualche parte doveva pur andare, ma non sapeva dove, sapeva di non avere di che vivere. Il signor Darcy gli domandò perché non avesse sposato subito tua sorella. Sebbene non fosse da credere che il signor Bennet vivesse molto largamente, qualche cosa per lui avrebbe sempre potuto fare, e del matrimonio egli non avrebbe avuto che da guadagnare. Ma in risposta a questa domanda, il signor Darcy apprese che Wickham accarezzava ancora la speranza di fare la sua fortuna con un matrimonio più cospicuo in qualche altra regione. Tuttavia, date le circostanze, non seppe resistere, come era prevedibile, alla tentazione di trovare sollievo immediato. Si videro diverse volte, perché c'erano molte cose da discutere. Naturalmente, Wickham voleva di più di quanto gli era lecito ottenere, ma finì con l'essere indotto alla ragione. Quando ogni cosa fu stabilita fra loro, l'altro passo mosso dal signor Darcy fu quello di mettere tuo zio al corrente della cosa e la sera prima del mio arrivo si recò per la prima volta in Gracechurch Street. Ma Gardiner non poté riceverlo e proseguendo nella sua richiesta il signor Darcy venne a sapere che tuo padre si trovava ancora presso di lui, ma che sarebbe partito da Londra l'indomani mattina. Egli non ritenne altrettanto conveniente un abboccamento con tuo padre e si dichiarò quindi pronto a rimandare l'incontro con tuo zio fino a che il primo fosse partito. Non lasciò detto il suo nome e fino al giorno dopo non si seppe altro se non che un signore era venuto per questioni d'affari. Ritornò il sabato. Tuo padre era intanto partito, tuo zio era in casa e, come ti ho detto dinanzi, ebbero un lunghissimo colloquio. Si ritrovarono la domenica e allora lo vidi anch'io. Ci volle fino a lunedì prima che fosse tutto concluso. Allora fu subito inviato un corriere espresso a Longbourn. Ma il nostro visitatore fu molto ostinato. Dopotutto, Lizzy, credo che sia proprio l'ostinazione l'unico suo vero demerito. È stato accusato di molti difetti a varie riprese, ma questo è l'unico suo vero. Non ammetteva che cosa alcuna fosse fatta se non da lui, sebbene io sia certa, e non lo dico per sentirmi ringraziare, perciò tu non replicare, che tuo zio sarebbe stato prontissimo a sistemare ogni cosa. Disputarono a lungo su quel punto, più di quanto meritassero i due diretti interessati, ma alla fine tuo zio fu costretto a cedere e invece di avere la soddisfazione di essere d'appoggio a sua nipote, si dovette contentare di averne molto a malincuore il merito agli occhi del mondo. E credo davvero che la tua lettera di stamane gli abbia procurato una gran gioia, di quanto richiede una spiegazione che lo spoglia di codeste belle penne presa a prestito e restituisce il merito a chi di dovere. Però Lizzy, bada di tener tutto questo per te, o tutt'al più di farne parte solo a Jane. Sei abbastanza informata, credo, di ciò che è stato fatto a favore dei due giovani. Verranno pagati i debiti di lui che ammontano, mi pare, a parecchio oltre le 1.000 sterline, altre 1.000 in aggiunta all'assegno di lei, e gli si acquisterà un brevetto di ufficiale. La ragione per cui tutto ciò dovesse essere fatto da lui solo è quella che ti ho riferito qui sopra. Era a causa sua, a causa del suo riservo, della sua mancanza di giusta considerazione, che il carattere di Wickham era stato tanto travisato e quindi l'aveva reso così accetto e ben visto. Forse c'era in questo una parte di vero, benché io dubiti che il suo riservo o il riservo di chiunque altro possa essere responsabile dell'accaduto. Ma nonostante tutti questi bei discorsi, mia cara Lizzy, puoi essere perfettamente sicura che tuo zio non avrebbe mai ceduto se noi non avessimo attribuito al signor Darcy un'altra sorta di interesse nella faccenda. Una volta prese tutte queste decisioni, egli fece ritorno dai suoi amici che erano ancora a Pemberley, ma si combinò che egli si trovasse di nuovo a Londra quando avrebbe avuto luogo il matrimonio. Allora si sarebbero messe a punto le varie questioni finanziarie. Credo ora di averti detto tutto. A quanto tu mi dici, ti aspetti da questo mio racconto grande sorpresa, spero se non altro che non ti sia causa di dispiaceri. Lydia venne da noi e Wickham ebbe costante e libero accesso in casa nostra. Lo trovai tal quale l'avevo conosciuto nello Herefordshire, ma non ti direi quanto poco mi abbia soddisfatto il contegno di lei durante il suo soggiorno in casa nostra. E se dalla lettera di Jane di mercoledì non avessi compreso che la sua condotta nel rientrare a casa è stata identica. Quanto sto per dirti non può essere per te causa di nuova afflizione. Le ho parlato più e più volte in tono molto serio, cercando di farle presente la gravità delle sue malefatte e tutta l'infelicità che ne era derivata per la sua famiglia. Se ha colto qualche parola, è stato per puro caso, poiché sono sicura che non è stata ad ascoltarmi. Qualche volta mi sono sentita proprio irritata, ma poi ho pensato alle mie dilette Elizabeth e Jane. E per amor loro ho portato pazienza. Il signor Darcy tornò puntualmente e, come ti ha detto Lydia, assistito alle nozze. L'indomani è rimasto a pranzo con noi, mercoledì o giovedì doveva nuovamente lasciare la capitale. Mi serberai proprio molto rancore, Lizzy cara, se colgo questa occasione per dirti, cosa che non ho mai avuto il coraggio di dichiararti prima, quanto mi è simpatico. Con noi è stato sotto ogni aspetto amabile, come quando si era nel Derbyshire. Il suo intelletto, le sue opinioni mi piacciono, non gli manca nulla se non un tantino più di vivacità, e questa gliela potrà infondere sua moglie se farà un matrimonio saggio. L'ho trovato quanto mai scaltro, si può dire che non ha mai fatto il tuo nome. La scaltrezza, a quanto pare, è una qualità di moda. Ti prego, perdonami se sono stata sfacciata o almeno non punirmi al punto di escludermi da Pemberley. Non sarò mai completamente felice finché non avrò fatto tutto il giro del parco. Un piccolo phaeton con una bella coppia di cavallini nani sarebbe proprio quel che mi ci vuole. Ma devo smettere di scrivere. È mezz'ora che i bambini hanno bisogno di me. Tua affezionatissima zia Gardiner. Il contenuto di questa lettera mise Elizabeth in uno stato d'agitazione nel quale era difficile discernere se avesse più parte la gioia o il tormento. Si rivelavano in sommo grado fondati i vaghi, incerti sospetti suggeriti dal dubbio di quel che il signor Darcy aveva potuto fare per promuovere le nozze di sua sorella, sospetti che ella aveva temuto di incoraggiare intravedendovi una generosità troppo grande per essere ammissibile e al tempo stesso aveva avuto paura di riscontrare fondati per non doversi sentire obbligata. Le aveva seguiti apposta in città, si era addossato tutto il fastidio e l'umiliazione attinenti a un'indagine del genere, nella quale gli era stato necessario supplicare una donna che doveva aborrire e disprezzare e nella quale aveva dovuto abbassarsi a incontrare sovente, interpellare, persuadere e da ultimo corrompere. L'uomo che più di ogni altro aveva sempre desiderato evitare, l'uomo il cui nome soltanto era per lui un castigo pronunziare. Aveva fatto tutto questo per una fanciulla, per la quale non poteva nutrire né affetto né stima. Il cuore le sussurrava che lo aveva fatto per lei, ma questa speranza fu presto repressa da altre considerazioni. Malgrado la sua vanità, si capacitò quasi subito che l'affetto che gli poteva nutrire per lei che già l'aveva respinto, affetto dal quale dipendeva ogni cosa, non poteva essere tale da fargli superare un sentimento così naturale come la sua ripugnanza a imparentarsi con Wicca. Cognato di Wicca. Qualunque genere di orgoglio si sarebbe ribellato all'idea di una simile parentela. Darcy aveva fatto molto, certo, ella si vergognava anzi pensando a quanto aveva fatto, ma aveva offerto per il suo intervento una spiegazione che si poteva accettare senza eccessivo sforzo. Era logico che sentisse di avere avuto torto, era generoso e aveva i mezzi per permetterselo, e sebbene ella non pensasse di essere stata per lui il movente principale, poteva forse credere che quel po' di simpatia che ancora gli rimaneva per lei lo avesse aiutato nel tentativo di comporre una causa in cui la sua serenità di spirito veniva posta a repentaglio. Era penoso, penosissimo, sapersi obbligato a una persona che non si sarebbe mai voluta ricompensare. Il ritrovamento di Lydia, la sua reputazione, tutto dovevano a lui. Come rimpiangeva amaramente ogni sgradevole impressione da lei alimentata, ogni parola aspra che gli aveva rivolta. Per sé non provava che umiliazione, ma era orgogliosa di lui, orgogliosa che in una questione di pietà e di onore egli fosse stato capace di vincere se stesso. Lesse e rilesse le lodi che di lui le aveva tessuto la zia. Non erano sufficienti, ma la lusingavano. Provò persino un certo piacere, benché misto a rimpianto, nel constatare quanto fermamente convinti fossero gli zii, tutti e due, che fra lei e il signor Darcy dovesse sussistere affetto e confidenza. L'avvicinarsi di qualcuno la fece alzare dalla panchina, distandole dalle sue riflessioni, e prima di avere il tempo di prendere un altro sentiero, venne raggiunta da Wickham. Temo di interrompere il suo solitario vagabondaggio, cara cognata. Senza dubbio, ma non ne consegue necessariamente che l'interruzione sia sgradita. Me ne dispiacerebbe molto. Noi siamo sempre stati buoni amici e ora lo siamo ancora di più. Vero? E gli altri escono? Non lo so, la signora Bennet e Lydia vanno a Meryton in carrozza. Dunque, cara cognata, ho sentito dai nostri zii che lei ha proprio visitato Pemberley. Gli rispose affermativamente. Quasi quasi le inviderei quella gioia, e se non credessi che sarebbe troppo per me, lo includerei nel mio itinerario per Newcastle. Ha veduto la vecchia custode, immagino. Povera Reynolds, mi ha sempre voluto un gran bene, ma naturalmente non le avrà parlato di me. Sì che me ne ha parlato. E che cosa le ha detto? Che si era arruolato e che aveva paura che non avrebbe fatto buona riuscita. A una distanza come quella, sa, le cose vengono facilmente travisate. Certo, ribatté mordendosi le labbra. Elizabeth sperava di averlo indotto al silenzio, ma poco dopo egli riprese. Mi sono stupito di vedere Darcy in città il mese scorso. Ci siamo incrociati varie volte. Chissà che c'ha da fare. Forse starà facendo i preparativi per le sue nozze con la signorina De Bourgh, rispose Elizabeth. Deve esserci qualche ragione speciale per farlo andare a Londra in questa stagione. È fuori di dubbio. L'ha veduto mentre era a Lambton? Mi pare che Gardiner mi abbiano detto di sì. Sì, ci ha presentati a sua sorella. E le piace? Moltissimo. Ho sentito dire infatti che è straordinariamente migliorata in questo paio d'anni. Quando la vidi io l'ultima volta non prometteva granché. Sono molto contento che le sia piaciuta. Spero che farà buona riuscita. Direi di sì. Ha superato l'età più ingrata. Ed è passato dal villaggio di Kimpton? Non me ne ricordo, non mi pare. Le parlo perché è il beneficio che avrei dovuto avere io. Un posticino delizioso. Bellissima la casa parrocchiale. Mi sarebbe andata a genio sotto ogni punto di vista. Ma le sarebbe poi piaciuto predicare? E come? L'avrei considerato parte del mio compito e dopo un po' non mi sarebbe più costato fatica. Non ci si deve lamentare, ma certo che quella sarebbe stata una gran bella cosa per me. Una vita così tranquilla, così ritirata, avrebbe corrisposto in pieno all'idea che io mi faccio della felicità. Ma non era destino. Hai mai sentito darsi alludere a questo fatto mentre era nel Kent? Mi è stato detto, e da fonte che ritengo altrettanto autorevole, che il beneficio le era stato lasciato soltanto sotto condizione e ad arbitrio dell'attuale patrono. Ah, davvero? Già, c'è una parte di vero in codesto. Glielo dissi anch'io sin dall'inizio, se ne rammenta? Ho sentito dire anche che ci fu un tempo in cui il predicare non era così di suo gusto, come sembra esserlo ora, che lei ebbe ansia a dichiarare di non voler mai prendere gli ordini e che la faccenda fu sistemata in conseguenza. Ah, davvero? Beh, la cosa non è del tutto priva di fondamento. Si ricorderà forse di ciò che le dissi a questo proposito quando ne parlammo la prima volta. Ormai avevano raggiunto la porta di casa, poiché Elizabeth aveva camminato a passo lesto per sbarazzarsi di lui e poiché per amore della sorella non desiderava provocarlo. Gli disse soltanto in risposta con un buon sorriso: «Su via, signor Wickham, siamo cognati, lo sa. Non discutiamo sul passato. In avvenire andremo sempre d'accordo, voglio sperare». Gli tese la mano. Egli la baciò con affettuosa galanteria, benché non sapesse quasi dove volgere lo sguardo. Ed entrarono in casa.